È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Mi dicono ciccione, eppure mi rimbalza, perché quando mangio non lascio rimanenza. Forse peso troppo e so pesante. Ma cosa è successo oggi alla Camera, Parenzo? Il neodeputato al secondo giorno, Mario Adinolfi, che qui sentite in una versione canora perché sa anche cantare oltre a giocare a poker, mentre andava a salutare il presidente Fini, gli sono caduti i pantaloni. Ho visto, ha detto che io gli ho chiesto di twittare, come dite voi giovani, sì, le foto dei boxer neri. Beh, ho capito, ma non aveva in quel momento una foto. No, non ho è che, detto, non è che fa continuamente foto. Ho detto vai nei bagni della Camera, sì, e fai il deputato trasparente al 100%, fotografa questi boxer neri che hai millantato. C'è stato, come dire, un seguito. Ma tu ti rendi conto? È andato di fronte a Fini per salutarlo al secondo giorno alla Camera e a un certo punto cosa è successo? Bam, giù i pantaloni e si sono visti i boxer neri del ciccione, lo dice lui, eh? Dice non, lui faccio, certo. Non faccio discriminazione del ciccione Adinolfi, che in realtà in questi ultimi giorni la combinata di cotte e di crude è esordito alla grande alla Camera, mentre si sta votando l'arresto o meno del signor Lusi al Senato. Nella combinata di cotte e crude, per esempio, ha detto di essere, e questo apre un dibattito all'interno del Partito Democratico, un contrario a matrimoni gay. Vabbè, non sarà nel primo che l'ultimo. Sentiamo. No, non sono un convintissimo sostenitore dei matrimoni gay, anzi no, non lo sono. Il problema è le implicazioni che derivano sulla prole, questo è l'elemento secondo me nodale. Dove c'è il matrimonio c'è anche l'adottabilità, dove c'è l'unione che è una cosa diversa, non c'è in alcuni casi l'adottabilità. Il mio criterio fondamentalmente è un bambino... E poi ancora ha detto per esempio che vuole legalizzare il poker live, lo vuole insegnare anche alla sua figlia il poker. Consigliereste ai giovani di fare il poker? Giocate a poker. Guarda, il poker non va consigliato, il poker è uno skill game, cioè un gioco d'abilità. Se uno avesse talento, assolutamente sì. Io a mia figlia l'ho insegnato, cioè non c'è niente di scandaloso. Le prime imprese del deputato Ciccione, detto, ripeto, con tutto il rispetto, le prime imprese del deputato Ciccione Adinolfi, che oggi di fronte a Fini si è lasciato cadere i pantaloni, gli è scappata una bretella ed è rimasto in mutande alla Camera. Non si è lasciato cadere. No, non l'ha fatto apposta. Fatto come quelle bellissime donne che si tolgono il come si dice, l'asciugamano quando escono dalla doccia, no? Sì, certo. Allora, Vittorio Feltri sferza ancora il PDL e dice primarie, mollare la Chiesa, lo dice forte, cari amici del PDL, dice Feltri, e noi siamo con te. Dillo, Parenzo, mollate il PD, mollate la Chiesa, mollate il Vaticano. Ma Vittorio, avanti tutta, Feltri, no Vaticano. No, beh, questo ha detto, no Taliban, no Vaticano, lo dici tu, smettetela di reggere la coda ai preti, così scrive Feltri, smettete di reggere la coda ai preti, aprire ai matrimoni gay, criticare l'euro, Feltri. Questo. Si parla addirittura di 8 liste civiche. Ma e poi alla fine chi prende i voti? Spezzettati in quel modo, poi come ci si allea? Non ho capito niente, io naturalmente sono in difetto io, sono io che non capisco probabilmente perché sono tardo, sono anche di Bergamo, quindi mi manca lo iodio. Però se qualcuno ce lo spiegasse sarebbe meglio. Grande Vittorio, ti appoggiamo, non per concorrere alle primarie del PDL, che è una buffonata, non devi concorrere a nessuna primaria del PDL, cosa c'entrano le primarie con Feltri? Questo è il deputato Adinolfi che canta, Comunque guarda che... Che c'è? A proposito, dimmi. Di persone a cui manca lo iodio, sì, come per usare un'immagine del direttore, sì, a Berlusconi manca completamente lo iodio oggi. Perché? Perché dire non è bestemmia l'uscita dell'Italia dall'euro. Sentiamolo, mi sa che c'è già pronto questo audio di Berlusconi. No, non c'è nessuna scaletta, vai, qui si va in libertà. Dico, gli manca lo iodio perché se anche la Grecia di Samaras e del PASOK fanno di tutto per restare nell'euro e sì. Il signor Berlusconi dice no, mi annoi, ti precedo già, no, mi annoi, e già Berlusconi, faccio anche la tua parte. Sentiamo guarda. Berlusconi, no. Sentiamo dai. Berlusconi. Gli stati singoli, se la Germania insiste, persiste in questa sua posizione negativa, ritornino a delle monete nazionali. Non è auspicabile, certamente, però ricordiamoci che ci sono anche tanti vantaggi. Però effettivamente poi Berlusconi ha specificato nel caso l'euro non abbia alle spalle una BCE che faccia la banca di garanzia, insomma non è che ha detto fuori dall'euro, ha detto non è un'assurdità perché la BCE deve fare il suo mestiere, vabbè insomma non mi sembra una cosa così folle. Una cosa detta veramente. Ho capito, non è che adesso, scusami però abbi pazienza, adesso però, non è che non si possa dire qualcosa contro l'euro. Ma non so se non hai capito, si può dire tutto. E allora, cioè basta. Solo ma perché ipotizzare solo l'idea? Ci sono fior di economisti che ipotizzano, naturalmente non è che... non è che sono tutti pazzi questi qua, sto dicendo che se uno dice bisogna che succedano certe cose, altrimenti è ipotizzabile anche una fuoriuscita dall'euro, non è che sia un pazzo scatenato, no, c'è una cosa che dicono fior di economisti, lucida. Vabbè adesso dopo il comunismo e dopo altre cose adesso c'è la cosa fideistica nell'euro. Ma cioè, non è fideistica, è che oggi anche un paese torturato, distrutto come la Grecia, vabbè, fa di tutto per restare. E noi che siamo messi molto meglio, arriva Berlusconi che non si sa, improvvisamente si è risvegliato, sì, e ritorna a parlare di politica. Fammi sentire Cassano, stai zitto, fammi sentire Cassano che dice di essersi pentito, dice di essersi pentito sulla vicenda dei gay, sentite. Adesso in questi giorni riesco a capire la differenza tra una frase e l'altra, tra una parola e l'altra. Io non volevo offendere nessuno, ero in buona fede, poi ero in un momento scherzoso. Ripeto, non volevo offendere nessuno, ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole nella propria vita e rispetto tutti io. E vabbè, sì, ho capito, però non è che quando uno va in conferenza stampa scherza, ride, eccetera. La risposta è una frase precisa. Poi dice che non conosceva la parola omofobia, che gliel'ha messa qualcun altro dentro quel comunicato, ma non c'era bisogno che ce lo spiegasse. Brunetta dice di saperne più di Monti sul lavoro, sentiamo. Veramente io capisco più di Monti in tema di lavoro, lui non se ne intende. Io faccio di mestiere. Il paese capirà, diciamo, in un mi sembra una battuta. Conosco Monti, è un bravo economista, ma non esageri. Follini, 22 milioni di euro quelli che sono imputati a Lusi equivalgono a 1033 anni di stipendio degli operai. Questa è l'unica cosa che vi metto sul dibattito in corso. Follini, PD. Milioni di euro sono l'equivalente del salario di un operaio della Fiat di Pomigliano d'Arco per 1033 anni, 11 mesi e 7 giorni e sono l'equivalente dello stipendio di un insegnante di scuola elementare con un'anzianità di 5 anni per 1238 anni, 9 mesi e 21 giorni. Eccoci qui, io francamente non capisco, per carità c'è la questione, un attimo solo, signor Soro. Ah, così a sorpresa? Eh sì. Che era il capogruppo del PD al Senato, no? Alla Camera. Tempo fa. Dermatologo. Dermatologo. Adesso è all'Authority, ho perso un attimo. Della Privacy, presidente. Ah, la Privacy, presidente, sì. Sì, giusto, scusa, presidente. Dermatologo, Beh, aveva cambiato il telefonino per la Privacy, no? Beh no, se è garante della privacy, no? Se è sempre il suo. Per tutelare la sua privacy è tutto finito, no? Signor Soro, cioè volevi capire come si coniuga la dermatologia con la privacy. Ecco, giusto? Ecco appunto, sì, sì, sì. Immaginavo subito, come si unisce, come si unisce la competenza della dermatologia con la privacy? Beh, noi crediamo, sai quando rispondono i politici? Beh, noi crediamo, beh guarda, beh veda, sempre beh veda dicono. Ha cambiato il cellulare, te lo dico io, per ragioni di privacy l'ha fatto. Eccoci qui, il PDL intanto uscirà dall'aula e la richiesta di arresto a questo punto pare che verrà accolta. Queste sono le previsioni. Queste sono le previsioni. Comunque, come si fa a uscire dall'aula? Giocatevela a viso aperto, siete contrari all'arresto di Lusi. Giocatevela a viso aperto, ditelo, uscire dall'aula, questi mezzucci parlamentari. Mezzucci parlamentari, bravo. Non sa decidere più su nulla il Partito Democratico, almeno il PDL. Il PD ha deciso in maggioranza, più o meno, a stragrande maggioranza, per l'arresto, giusto, sbagliato, quello poi ognuno giudica, ma il PDL esce dall'aula. Metteteci la faccia, amici del PDL. Se siete contro l'arresto, e ci sono dei motivi secondo me, se siete contro l'arresto di Lusi, ditelo a viso aperto, sfidate l'opinione pubblica, non uscite dall'aula, sono Bravo. Piccoli mezzi, mezzi inutili. Di questa vita infame mi bagno pure a goccia, insieme a tanto culo serve anche la capoccia. Questo è sempre il signor Adinolfi, eh. Ma non ho capito le parole, scusa. È sempre il signor Adinolfi. L'onorevole Adinolfi. Onorevole. Luciano da Torino, buonasera, 800 24 0024, Luciano. Buonasera dica, a tutti. Dica. Ho sentito ieri parlare della società civile, che palle, posso dirlo? La che società palle. Civile. Guardi, non mi non mi, io ripeto, non mi pronunci questa parola perché un po' reagisco come Ferrara, divento pazzo. Altrimenti, gli onesti propri, sì, metto mano alla pistola. Metto mano alla pistola, lasci perdere la sinistra, che c'entra la invece sinistra? Io volevo, no, perché sono tutti solo di sinistra. Io, ad esempio, non partecipo alla società civile. Aridaia con sta sinistra. Ecco, ai. Centro-sinistra, diciamo. Comunque, il mio discorso era invece su Napolitano, Mancino e Cini. Io approvo assolutamente tutto il cancan che ha fatto, magari rozzamente come suo solito, il Di Pietro, perché è una cosa scandalosa. Cos'è scandaloso? Che cos'è scandaloso? Quello del Mancino che fa tutte queste sceneggiate con la Presidenza della Repubblica, la Presidenza della Repubblica che risponde. A me avrebbe risposto qualcuno dell'ufficio legale del... A me cittadino che protestavo per qualcosa dicevo coordinate le procure, pensate l'eufemismo, giusto? E invece lì hanno parlato, perché ormai adesso è saltato fuori, e con l'ipocrisia anche di molta stampa che queste cose le ha messe un po' in sordina. Il fatto, guardi, vabbè, guardi, lei ha, se lei è appassionato di queste storie, per carità, lo capisco, lo capisco, perché lei è appassionato di queste vicende. A me, sinceramente, personalmente, della trattativa tra Stato, qualcuno vuole, tra Stato e mafia, qualcuno vuole fare addirittura una commissione d'inchiesta. Parenzo, aiutami tu. Di Pietro, una commissione d'inchiesta. Le commissioni d'inchiesta sono morte, finite, sono un'altra epoca, hanno prodotto risultati zero. Mi dicono ciccione, eppure mi rimbalza. Quando magno non lascio rimanenza, forse peso troppo e so pesante dentro, però di sicuro... Il deputato che ha perso le mutande davanti a Fini, state sentendo una delle sue produzioni artistiche, si tratta di Mario Adinolfi. È bellissima, mi dicono ciccione. Tu sei a favore dell'arresto di Lusi, naturalmente, no Parenzo? No, ecco, ponendo così la questione, sbagli come al solito. Io sono perché il Parlamento decida, mettendoci la faccia, e tratti il signor Lusi come un cittadino qualunque. Ma non è un cittadino qualunque, è un deputato della Repubblica, un senatore della Repubblica. Allora dovresti abolire il passaggio parlamentare. Infatti, allora, sii coerente. L'ho detto mille volte. Dunque, un deputato e un senatore, può essere arrestato per te in qualsiasi momento, giusto? I reati no, ma dilla fino in fondo. La dignità del Parlamento. Lui stesso a dire... Mi sospendo dalla carica, vado ai domiciliari e mi faccio processare. Poi oggi c'è una notizia buona, che è quella che riguarda il signor Cuffaro, ad esempio, che è una notizia che mi ha colpito, va data, io sono felice poi quando le persone vengono assolte dal reato. Ma veramente è in carcere Cuffaro? Sì, ho capito, ma... È in carcere, però il confermato a Cuffaro è stato assolto dal concorso esterno. Quindi c'è il filone del processo che va avanti. Sì, lì è stato sì, però non essere troppo lungo su Cuffaro. Che me ne frega a me di Cuffaro? Oggi al Senato, qual è il clima. Non sono per nessuna manetta. Sì, ho capito. Tanto per farti capire qual è il clima. Luigi Zanda del Partito Democratico ha detto sì all'arresto perché va arginata l'ondata di discredito. Diciamo la verità, le carte non le legge nessuno. Qui c'è una parte di deputati, di senatori che dicono siccome c'è il discredito nei confronti della politica bisogna comunque dare l'arresto a Lusi. Altri senatori, quelli del PDL, che non hanno il coraggio di dire no, certo, perché altrimenti pensano di essere presi a pernacchie, se non di peggio, di fronte al Senato, certo, e che escono dall'aula senza prendere una decisione. Questa è la realtà. Infatti, la cosa Raffaele da Brindisi, buonasera. PDL, certo. Buonasera, dottor Cruciani. Io avevo fatto una piccola riflessione per quanto riguarda i matrimoni fra gay, ma in particolare l'adozione dei figli che da parte loro. Io per quanto riguarda i matrimoni non ho nessun problema, sono fatti loro, poi lo Stato penserebbe per contro la frode, diciamo, per le pensioni, per la, quelle che sussiste dopo la morte degli uno dei loro. Però ai bambini nessuno ci pensa se sono d'accordo o meno ad avere due genitori, due femmine o due maschi, o diciamo una coppia, diciamo. Ma il bambino non può decidere, naturalmente, Raffaele. Appunto, ma il trauma che ci va a creare a questo. Che ne sa che c'è un trauma? Un attimo solo, sì, sì. Che ne sa che c'è un trauma? Può esserci un trauma, no? E chi lo dice? Perché un bambino, un minorenne, noi lo stiamo. Può essere, appunto. Lo stiamo dando in adozione a una coppia. Perché non esistono bambini che si traumatizzano perché i genitori non vanno d'accordo, o perché la vita familiare. O perché la vita familiare. In quella famiglia. Non è che un altro decidere di andare a finire in un'altra famiglia particolare come questa. Perché. Un attimo solo. Tesoro? Eh sì. Antonello? La privacy, non risponde, per forza c'è la privacy. Parla più forte, se no non ti sento. No, c'è la privacy, per forza, non risponde, ha cambiato il numero, vedrai. Che squilla, ma va. Signor Soro, dermatologo. Squilla il telefono di Antonello Soro, ex esponente del Partito Democratico, che si è dimesso dal Parlamento, però è diventato il nuovo presidente dell'autorità per la privacy, dermatologo primario. Quali competenze ha, secondo voi? Magari ha acquisito competenze in informatica, in diritto, perché questo prevede la norma, la legge in questi anni in Parlamento, non fa il dermatologo da tanto tempo, non lo so, certo qualche dubbio può venire. Beh, magari la dermatologia comunque. Le nomine del Partito Democratico. Beh, poi però ci sono le nomine del PDL anche. Sì, ma ho capito, le nomine del Partito Democratico, ho capito. Nicola, sì, che è vicepresidente. Sì. Raffaele, non ho capito bene la sua discussione sulla. Allora, il mio pensiero è questo. A lei non piace il fatto che un bambino possa essere adottato da una coppia gay, punto. Magari i genitori non vanno d'accordo, ma purtroppo c'è nato in quella famiglia. Sì. Alla fine sono figli di quella famiglia, di un marito, cioè moglie e marito. Magari muore uno dei due genitori, continua a vivere con uno solo. Magari però è purtroppo il destino che gliel'ha predestinato. Mentre qui, quando noi diamo in adozione un bambino a una coppia, sia che è formato da due femmine o due maschi, siamo noi, cioè chi è proposto a dare in adozione questi bambini, che purtroppo hanno avuto una frettura prima, e gli stiamo canalizzando la vita in quel senso. Raffaele, non sono d'accordo. Sì, non sono d'accordo. Allora, oggi su Wikipedia, sul profilo che io non controllo mai del sottoscritto, caro Parenzo, è uscita una cosa però, vuol dire, significativa, e lo dico a tutti quelli delle associazioni gay che in questi mesi ci hanno attaccato. Icona Gay, vabbè, rivolto a me, ma quella è un'altra cosa. Da tempo sostiene un'attività incessante campagna a favore dei diritti omosessuali attraverso i microfoni della trasmissione alla Zanzara di Radio 24. Sì, è vero, è così. Allora? Icona Gay, è vero, bellissimo. Lorenzo da Roma, buonasera. Buonasera, è un piacere parlare con voi. Dica. Senta, io ci tenevo a dire una cosa sia su Cassano e su Lusi. Per quanto riguarda Cassano, io trovo la sua sincerità assolutamente bonaria, e avremmo avuto la stessa risposta se avessimo fatto le stesse domande a un bambino. Sì, scusi, però Lorenzo, va benissimo la sincerità, però non è che poi fai marcia indietro perché ti sei messo nei guai. Queste sono le cose che dico. Cassano deve fare Cassano fino in fondo, non è che fa prima Cassano e poi diventa un diplomatico. Abbia pazienza. Faccia Cassano fino in fondo. Sì, la penso così. Non voglio avere niente a che fare con gli omosessuali, qualcosa di estraneo. Vabbè, ma diciamo lì poi è meglio che non siano in squadra, ho capito Lorenzo. Io quello che voglio dire è che secondo me è sbagliato mandare Antonio Cassano a fare la conferenza stampa che rappresenta l'Italia. È vero, è vero, questo è nel vero. Nel momento in cui si sa che sarà molto probabile. No, non è stato sbagliato mandarlo, è stato sbagliato non, come dire, gestire questa cosa in modo da far uscire certe cose. Non si possono obbligare i giornalisti a fare o non fare alcune domande, no? No, certo. Quindi grazie Lorenzo. Nicola, provincia di Chieti, buonasera, dica. Salve, buonasera. Allora, solo una cosa sul discorso di Lusi, che stanno praticamente per arrestare. Sicuramente è da considerare l'arresto, in questo caso qui, come tutti gli altri casi, tipo quello di De Gregorio l'altra volta, secondo me. Però Volevo aggiungere che secondo me all'onorevole Follini era che ha detto dei mille anni di un operaio, sì, se non sbaglio. Sì, i soldi di cui si sarebbe appropriato Lusi, su cui all'inizio Lusi tra l'altro aveva fatto piena confessione su quei soldi. Sì, ha ridato anche dei soldi, non lo so. Cioè, no, ridato soldi, per adesso non credo. Perlomeno nella sua... Vabbè, allora? E allora praticamente Follini deve sapere che anche lui praticamente tradendo quello che gli elettori hanno fatto tempo fa di annullare la praticamente... Sì, sia più veloce però, Nicola, per fondi, su. Sì, mi faccia parlare, però per i fondi del partito... Ma qui non abbiamo tre ore. Per fondi che hanno la legge che praticamente il referendum ha tolto i soldi ai partiti. Sì. E se questa legge sarebbe stata praticamente tolta, non sarebbe stata rifinanziata in qualche modo, rifinanziata grazie anche Nicola, a Nicola, si deve sbrigare lei. E mi sto sbrigando. Appunto, vada al sodo. E sto dicendo che Follini deve anche fare un mea culpa. Su che cosa? E sul fatto che lui anche sicuramente ha votato quando hanno rifinanziato. Ho capito, ma questo che c'entra col fatto uno che sull'appropriazione in debita di certi beni? Abbia pazienza. Comunque ci sono i titoli del TG3. Titoli, sentiamo. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Il Senato decide sull'arresto dell'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, il PDL si spacca sullo scrutinio segreto e uscirà dall'aula al momento del voto. Riforma del mercato del lavoro, pressing sui governi di PD e PDL, risposte certe e solenni, nodi, flessibilità in uscita, produttività ed esodati. PDL e Lega fanno saltare il taglio dei parlamentari, il PD è un baratto tra Senato federale e semipresidenzialismo, accordo sulle riforme e rischio. Bruxelles, l'intervento del Fondo Salva Stati per frenare lo spread è solo un'aspirina, ma in Italia il differenziale è sceso, in Grecia giura il nuovo governo. Un mese fa la prima forte scossa di terremoto in Emilia, 7 le vittime, 4 sono operai, più 10.000 gli sfollati che oggi vivono in tenda. Cominciati gli esami di maturità, oggi prova l'italiano, lievi ritardi e qualche apprensione per i temi inviati via web, tra le tracce Montale, i giovani e la crisi. Inghilterra sul cammino dell'Italia agli europei, una partita che evoca vecchie sfide, Londra boicotta l'Ucraina, nessun ministro inglese alla partita. Giulio da Bari, Giulio. Sì, buonasera, dottor Vada. Buonasera al dottor Parenzo. Buonasera. Perché ultimamente, non solo ultimamente, non prende posizioni, dottor Cusani? Mi spiego. Ci sono delle volte in cui la si sente spesso dire chi se ne frega, chi se ne frega. Ma dipende dall'argomento, Giulio, dipende dall'argomento naturalmente. Ma se un argomento come quello di un eventuale impeachment del nostro capo di Stato. Ma quale impeachment? Mafioso. Certo che dico che me ne frega in questo caso. Ma impeachment per che cosa? Impeachment per cosa? Perfetto. Ma impeachment per cosa? Scusi. Ma di che sta parlando? Impeachment del capo dello Stato per che cosa? Oggi una notizia. Ma che cosa? Che il capo dello Stato ha interferito su un'indagine in corso per quello che riguarda i rapporti tra Stato e mafia, l'eventuale trattativa? Ma di che parliamo? Secondo una versione, secondo lei crede solo una versione. C'è un'altra versione che dice che il capo dello Stato ha semplicemente fatto il suo dovere o comunque ha esercitato i suoi diritti. Punto. Sta dicendo sul serio. Ma non sto scherzando per niente. Fare un'interferenza di quel tipo. Ma chi è prerogative di un capo di Stato? L'interferenza di interferenza ne parla lei, innanzitutto dandola per scontata. Pare che almeno da quello che si è letto sembrerebbe che ci sia stato. Ah, ecco, da quello che lei ha letto sembrerebbe che eccetera. Vabbè, sì, certo. Dottor Cruciani, non mi sembra di vivere in un paese nel quale c'è. Lei ha letto e ha letto certe cose. Che questi problemi, sì, che ci siano situazioni in cui alcuni apparati si siano fatti coinvolgere. Sì, ma quello va tutto bene. Lei però ha letto e da quello che ha letto sembrerebbe che eccetera. A questo punto però ci sono state anche indagini abbastanza circostanziate, ci sono state tutta una serie di indagini, di articoli, non si è arrivati a chi ha scritto quegli articoli. Ho capito. Tra l'altro, uno dei pochi giornali che in Italia non viene aiutato da nessun tipo di contributo. Sì. Attenzione, che è una campagna, un'iniziativa, uno scoop del Fatto Quotidiano, la pubblicazione della lettera. Su questo non c'è dubbio. Lei però dà per scontate troppe cose. Ha già deciso che addirittura il Presidente della Repubblica va accusato di impeachment. Figuriamoci un po'. No, ho detto potrebbe essere, dottor Cruciani, l'italiano lo conosco anch'io. Ho detto potrebbe essere. Potrebbe. Ma quale potrebbe essere impeachment di cosa? Con tutto ciò che oggi sta emergendo potrebbe essere. Va bene. Sono soldi che comunque... lei che è avverso a qualunquismo di qualsiasi natura, quando sdogana qualsiasi argomento, perlomeno non l'affronta con chi se ne frega, è più qualunquista di ogni qualunquista. Mm-hmm. Tutto qui. Va bene, grazie. Vi presento la mia famiglia. L'epico scontro di ieri tra Erminio Boso, la famiglia Boso, Boso marito e Boso moglie e David Parenzo. Pronto? Pronto? Sì, di me. Sono Parenzo Boso, ciao. Ciao Parenzo, di me. Ma non ho capito perché non vuoi intervenire alla Zanzara e sei qui a rompere le balle dicendo no, con Parenzo non parlo, con Parenzo non parlo. Ma Parenzo, è un bel momento, ogni volta che da fare qualcosa continuo in sempre fuori a mezzi da Begara. E vediamo che mi sono cardiopatico, non posso più incazzarmi, allora non parlo più. Ancora, ancora. Giro. Ma non parli più di cosa? Che tutte le volte Cruciani prova a telefonarti, manco fossi un ministro che ci dici di no, scusa, ma che discorsi sono? No ragazzo, io sono di più di un ministro, Ma dai, Boso! Ma io non posso dire, Lega, sono di più di un ministro, ma stai scherzando, Parenzo? Ormai sei fuori dalla storia, Boso. Ma guarda, coglione, ma stai scherzando? Ormai sei fuori della storia, come giornalista, come tutto. Ma guarda, ormai sei fuori. Non conti più niente. Un giornalista che può andare a fare gli scartini, non il giornalista. Puoi fare gli scartini. E poi la moglie, Ma lei è la moglie dell'onorevole Erminio, no? Sì. Ah, ecco, benissimo, perché è lì in montagna, dove è uscito? Prego? Non lo capisco. No. Dico, è uscito? È andato a mungere le vacche, è uscito? Ah, non so niente. Ecco, ma anche lei è a favore della secessione, no? Per niente non vado a letto assieme, Come scusi, dice? Come dice, scusi? No, per niente non vado a letto assieme. Non vado a letto assieme in che senso? Se mi ha chiesto se anch'io sono favorevole alla secessione... Giustamente ti vado a letto e vuol dire che sono favorevole. E siamo qui 19:25 800 24 00 24. Le grandi, dice Antonio Martino, esponente del PDL. Il PDL non è un partito, ma un participio passato, partito per destinazione ignota. Ed effettivamente la frase di Martino si può applicare a quello che è accaduto oggi. Al Senato, dove il PDL è scappato, a parte alcuni esponenti, e non ha detto in faccia agli italiani cosa pensava del caso Lusi, per paura, per timore. Bravo. Sono 13 i senatori che hanno votato contro l'arresto, comunque, non 3, 13 i senatori. Enrico da Firenze, buonasera. Buonasera. Dica. Io, è uno scherzo, Dio Cruciani. Ho visto, non si vede più la russa, non era la televisione, da nessuna parte. Pronto? Enrico, dica. Dicevo, non si vede più l'ex ministro La Russa. Io ho visto la partita con la Francia e c'è uno con il numero 7 e assomiglia tutto a lui, ma che ha fatto la cura per ingiovanire e andare a giocare al calcio. Non ho capito, scusi. Che ha fatto la cura per ingiovanire e è andato a giocare con la Francia al Euro 12. Ma chi, scusi, chi? Di chi sta parlando? La Russa. Ah, lei dice c'è un giocatore nella Francia che assomiglia alla Russa? Quale? Che ha fatto la cura per ingiovanire. Ma che dice? Ma di chi sta parlando? Ma no, ma è la telefonata in convenzione. Hai la solita telefonata in convenzione, sì, dici sì, tu. Della salute. È uno scherzo, È uno scherzo, non si è capito niente da questo scherzo, però. Scusi, Enrico, non si è capito nulla. Lei dice chi è il 7, chi è Ribéry? Chi è? Ribéry è uguale alla Russa senza i baffi? Quale? Ma adesso non esageriamo, c'è pure uno sfregio, Ribéry, non c'entra niente con la Russa. Enrico, guardi meglio, inquadri meglio la televisione, metta gli occhiali. Claudio da Pisa. Claudio, dica. Volevo dire una parola a favore del povero Cassano. che mi sembra sia stato un po' messo in croce per quella parola sui froci. Beh, adesso. Ma è stato messo in croce, è stato criticato per aver detto certe cose, non per quella parola, per aver detto non li vorrei in squadra, è stato criticato per questo. Secondo me poi non doveva nemmeno fare quella correzione, inutile a quel punto, inutile. No, le correzioni sono sempre inutili. Ha detto affari loro, in effetti sono affari loro. No, ma affari loro ci può affari loro ci poter perché ha usato la parola frocio. Ma no, ma la parola frocio va benissimo. Da molti froci in pannella che mi sembra l'abbia adoperata anche nella vostra trasmissione. Certo Claudio, ma va benissimo la parola froscia. Una persona che si presenta al Festival di Sanremo 2 anni fa e dice che è l'unica al mondo che ha scritto più libri di quanti ne ha letti, perché ne ha letto uno solo. Sì. I giornalisti lo spellano vivo perché ha parlato in maniera inopportuna, mi sembra che sia un po' di persecuzione da parte dei giornalisti, certi giornalisti che vogliono farsi pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24. Caro Parenzo, riprende la zanzara, siamo sempre qui e abbiamo appena iniziato. Molto bene. Vincenzo da Campobasso, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io niente. Vi seguo quasi tutte le sere tornando dal lavoro. Sì. Perché devi dire niente? E stasera diciamo ho sentito che avete mandato in onda i titoli del TG3. Beh, lo facciamo ogni sera da un po' di anni, eh? Sì, lo so, però sentendo un titolo, mo non so se ho capito bene o male. Sì. Però in pratica i senatori o i deputati, non so, del PDL e della Lega sono usciti fuori per far saltare praticamente PDL. La legge sulla riduzione dei parlamentari. Sì, è vero. Pare che sia saltata, alcuni dicono di no, la parte di legge sulla riduzione dei parlamentari. Sì. Allora, premesso che io un articolo che prevede la riduzione dei parlamentari, sì, per un accordo pare tra il PDL e la Lega, un'altra vergogna di oggi. Questa riduzione maledetta dei parlamentari, sono pochi parlamentari che avete ridotto, li volete ridurre sì o no? Subito. Ora, senatore Lusi? Non possiamo eliminarli, ce ne prendiamo una ventina dall'estero e risolviamo un sacco di problemi, no? Pronto? Sì, la sento. Ecco, io volevo dire questo, io faccio, diciamo, sono un piccolo imprenditore nel settore edile e vi devo confessare che in questo momento la situazione è veramente drammatica e i nostri parlamentari, invece che parlare e discutere e mettersi d'accordo per problemi seri, reali, per come, diciamo, ridurre effettivamente il carico dello Stato sulla spesa pubblica, cioè parlano ancora di semipresidenzialismo alla francese, di cose astratte. Vabbè, adesso però non è che non si può, sono discorsi inutili. Ho capito, Vincenzo, però non è che non si possa parlare di riforme. Cioè, è troppo tardi, siamo d'accordo, non è che però non si possa parlare di queste cose perché adesso ci sono altre questioni da risolvere. Cioè, ci si occupa di una serie di problemi, anche questo non è il principale problema, ne sono convinto, però non è che adesso da qui alla fine della crisi non si può parlare di riforme istituzionali. Sarebbe una follia, no? Si deve parlare di riforme istituzionali, però riforme istituzionali serie, cioè partiamo dall'abbattimento serio dei parlamentari. Va bene, ho capito Vincenzo, oggi purtroppo c'è un'altra vergogna da registrare, cioè il fatto che non si mettono ancora d'accordo sulla riduzione dei parlamentari, anzi sono messi d'accordo su una riduzione minima, adesso pare che l'abbiano rinviata per un accordo tra PDL e Lega, vergogna. E Carlo da Foggia. Vincenzo, devo dare la linea a Carlo da Foggia, buonasera. Carlo, dica. Sì, buonasera. Secondo me non c'è fumus persecuzioni nei confronti di Lusi, perché Lusi prima che gli venga... Lei ha letto le carte, ha letto le carte lei. Ma io so soltanto che Lusi non è stato mai perseguitato dalla magistratura. Nel momento in cui sono uscite fuori delle intercettazioni e delle carte che dicono che lui, anche lei l'ha detto prima, a preparazione indebita, lei rispondendo al secondo radioascoltatore, che paragonava il caso di Follini, gli ha detto non è la stessa cosa perché qui c'è un caso di appropriazione indebita. Quindi nel momento in cui i magistrati trovano un'appropriazione indebita, sì, ho capito, qui non si sta discutendo dell'oggetto, si sta discutendo della necessità di arrestare, poi ci sarà il processo eccetera eccetera, della necessità di arrestare. Secondo i magistrati va arrestato anche adesso, secondo un'altra versione diciamo che questo arresto così, come dire, dilazionato, così rispetto al momento delle accuse, eccetera, eccetera, non serve assolutamente a nulla. Ci sono diversi... però la sì, è il fumus persecutionis, ho capito, certo. La difesa di Lusi è quella di scaricare sul resto del partito la responsabilità. Io non credo che nel partito qualcuno gli abbia detto, ok, utilizza milioni di euro per acquistarti le ville o farti e infatti ragazze, questo è anche non, credo, non c'è questa, dubbio. Questa tesi è indifendibile. E la seconda, è la seconda pista che sta battendo Lusi, che batteva perché ormai è stato autorizzato l'arresto, era quello di dire che c'è il fumus persecuzione, ma non è così. Vabbè, non è così, voglio dire, secondo alcuni senatori è così, secondo la maggioranza no, infatti hanno votato per l'arresto. Va bene, vabbè, grazie Carlo. Ho capito, secondo lei non c'è fumus persecutionis, io non ho letto le carte, ma il problema non è quello, si giudica in questi casi in base alla politica, a interessi politici, non alle carte, e questa è la realtà, è inutile sfuggire a questa realtà. Gianfranco da Milano. È così che deve essere, ma chissà perché non succede mai. Gianfranco da Milano. Felice serata. E voglio esprimere un mio parere, ironicamente, di questo governo Monti, che mi sembra che sia un governo peso il tacon del buso, come forse Parenzo, essendo veneto, comprende bene. Perché si è messo a tassare, a imposte, riduzioni, eccetera, dopo sei mesi che non ha incassato una lira, ha trovato fuori gli 80 miliardi per investimenti. Se appena fosse insediato il governo, avesse tirato fuori 20 miliardi da investimenti, da mettere in moto l'economia, perché attraverso l'economia... Ma se non ci sono sti soldi? Come non ci sono? Ci sono. Se mi viene fuori già da dire che ci sono 300 miliardi di spesa pubblica che è ingiustificata... Io avrei fatto, siccome da sei mesi... Lei avrebbe fatto, sì. Sì, io faccio, perché a questo punto bisogna prendere in mano il... Sì, lei cosa avrebbe fatto, signor Gianfranco? Allora, cosa avrebbe prima fatto? Di tutto che avesse approvato quella proposta di legge che da 12 anni che è alla Commissione parlamentare sulla giusta pensione. Scendiamo dalle poste di bilancio quelli che sono i soldi dei lavoratori, anche i suoi, Cruciani, oltre quello del Presidente della Repubblica, e messi da parte per dare la possibilità di non trovarci in questa situazione, prima di tutto, perché ci troviamo in condizioni di poter esprimere con quei soldi uno sviluppo. Sì, va bene Gianfranco, già mi sono annoiato, andiamo a Modena, come... Ugo, mi dispiace, mi sono annoiato, Ugo da Modena. Buonasera, Cruciani. Dica. L'altra volta parlavate del matrimonio tra uomini. Sì, ma ne parliamo spesso. Che sta dicendo, Ugo? Scusi. No, quello che mi pare che lei sia perfettamente d'accordo con quell'idea lì. Sì, sono abbastanza d'accordo. Allora? Mi sembra che, secondo me, è un'idea bizzarra. È un'idea bizzarra. Sì, avevo capito che lei aveva qualcosa da dire. È pazzesco. È pazzesco pensare una cosa di questo tipo. È pazienza. Io credo che due uomini che si mettono insieme sono malati. Sono malati due uomini che si mettono insieme. Sì, lei da dove chiama? Da dove chiama, signor Ugo? Da Modena. Da Modena. Ma lei che origine ha? Non è italiano? No, non sono italiano. No, però di dov'è? Di dov'è? Italiano. Non sono di origine italiana, però. Di dov'è? Sì, questo l'ho capito. Lei che è cittadino italiano. Purtroppo. Ma di che origine è lei? Io sono africano. Lei è africano, ma di dove? Da dove vengo esattamente? Sì. Ma ha l'importanza? Ma no, ma glielo chiedo, non è importanza, glielo chiedo. È un processo. No, io sono africano, punto e basta. È africano, vabbè, l'Africa è grande, c'è il nord, c'è il sud, c'è l'Africa nera, c'è l'Africa del nord. Allora, sono Africa occidentale. Scusi, signor Ugo, in Africa l'hanno chiamata Ugo, i suoi genitori? Dalla mia parte, francamente... Sì. Il matrimonio tra uomini non esiste. Non esiste, te credo. Per fortuna siamo in un altro continente qui, caro Ugo. Questo lo so, però io credo che non sia normale, perché dal principio Dio ha creato uomo e donna e gli ha detto mettetevi insieme e procreate. Questo so. Allora, se due uomini devono mettersi insieme e poi tentano di andare a adottare il figlio di qualcun altro, è abominevole questa cosa qua. Abominevole, adesso abominevole. Che dice? Sì, no, dico, abominevole, amico mio, va bene, sì. Amico mio, abominevole. È abominevole secondo il suo punto di vista. Ma lei lo farebbe? Ma che cosa farei? Eh? Scusi, che cosa? A mettersi con qualcuno, andare a adottare i figli di qualcun altro. Ma che vuol dire? Mettersi... abominevole secondo il suo modesto ma autorevole punto di vista. No, qualcun altro lo direbbe anche come me. Qualcuno? Secondo me. Sì, qualcuno la pensa come lei, certo. Ah, sì, certo. Non ha risposto alla mia domanda, però. Lei si metterebbe insieme con un altro uomo e andare a adottare il figlio di qualcun altro? Ma scusi, caro Ugo, se uno è eterosessuale, io non mi metterei con un uomo. Certo che no, sono eterosessuale, per cui non mi metto con un altro uomo. Che vuol dire? Allora, perché appoggia chi lo pensa in quella maniera? Quello che voglio dire. Non ho capito, scusi. Perché appoggio a chi? Ma che vuol dire? Non è che se io sono ho altri gusti non posso sostenere la causa dei matrimoni gay. Scusi, Ugo, ma di che parliamo? Cioè, sì, ora allora se lei lo sostiene, perché non spingi il governo a approvare la legge? Io spingo, ma non è che dipende da noi, per fortuna. Bravo a questo punto. Bravo, sì, bravo. Per me sono bravo, sì, per lei no. Bravo a questo punto. Bravo, bravo, sì. Sì, certo. Se uno crede una cosa, è una battaglia che porta. Va bene, Ugo, grazie. Massimo da Rimini. Ciao, Giuseppe, buonasera. Io volevo chiedere una cosa, brevemente. Sì, ma lei come è collegato, caro Massimo? Col viva voce, come è collegato? Io lo so. Sì. Io sono attaccato al telefonino. Sì, va bene. Stefano da Padova. Pronto, buonasera. Dica. Niente, io dovevo fare uno scoop all'Apparenzo. Sì. Dovevo rivelare come è andata veramente l'esame di laurea di Renzo Bossi. Cioè? Cioè, ho delle informazioni e so che a un certo momento dall'Albania lo chiamano per sostenere questo esame finale, per concedergli la laurea. Sì. E gli dicono, guardi, qui almeno una domanda, deve rispondere almeno una domanda. Vabbè. Allora, la domanda è questa. Sì. Che cosa c'è in mezzo tra Macedonia e Montenegro? Si concentri bene, ha tutto il tempo che vuole per rispondere. Sì. E dice, la so. Adesso io in dialetto lombardo non ne so, sono di Padova, non so fare il dialetto lombardo. Ma insomma dice, la so. Sì. C'è il caffè. Questo era uno scoop all'Apparenzo, capito? Vabbè, non è che Apparenzo fa solo questi scoop. No, anzi, mi permetta l'ironia, era volutamente. Ma figuriamoci, l'ironia è benvenuta, amico mio. Allora, il trote in Albania va a fare un esame, gli chiedono cosa c'è tra la Macedonia e il Montenegro, e lui risponde: il caffè. È divertente, carino. Siamo qui all'interno del pool Mani Pulite, dell'ex pool Mani Pulite, mentre Di Pietro, come sapete, ha criticato la scelta del Partito Democratico di appellarsi alla società civile, alle associazioni, non faccio fatica anche a ripetere questa parola, lo ha criticato in questo modo, sentiamo Di Pietro. Sono ovviamente amicissimo di Gerardo Colombo. Stimo molto la sua intelligenza, la qualità della sua cultura, e quindi sono sicuro che darà un apporto significativo alla RAI se viene confermato. Questa era Borrelli, naturalmente, che è favorevole alla designazione di Colombo. Anche D'Ambrosio, l'altro del pool Mani Pulite, dice di essere favorevole. Sentite. Senatore del PD? Sì. È un'ottima candidatura. Io credo che anche all'interno del consiglio di amministrazione della RAI avere una persona come Gerardo Colombo, una persona di grande intelligenza, di grande cultura e anche direi uno che sa leggere benissimo nei bilanci, ha un'esperienza alle spalle considerevole nel campo della legalità, sia un fatto eccezionalmente positivo. Bene, spaccatura nell'ex pool Mani Pulite tra Di Pietro che fa politico e gli altri invece sostengono la candidatura di Colombo. A questo proposito vorrei leggere una cosa incredibile letta questa mattina da parte del bravissimo, lo apprezzo tantissimo, Michele Serra su Repubblica. Senti cosa scrive: le candidature di Gerardo Colombo e Benedetto Tobagi alla RAI, scelta felice dell'associazionismo innescata dal passo indietro virtuoso di Bersani, sono una rivincita della Milano migliore. la Milano etica, democratica e protestante, tra parentesi, cioè tra virgolette, che si contrappone quasi naturalmente alla Roma peggiore, quella maneggiona, consociativa e curiale. Cioè, questa è la storia, cioè Colombo e la Tobagi sono espressione della Milano etica, democratica e protestante che si contrappone alla Roma peggiore, maneggiona, consociativa e curiale. Bah! Due autorevolissime persone. Sì, che... va bene. Sì, però non fare il pesce in barile, di come la pensi, deciso, secco su questa cosa di Serra, non fare le prediche. No, Riccardo dalla provincia di Bergamo, fammi sentire Riccardo, su. Una evidente ipocrisia. Sì, va bene, Riccardo dalla provincia di Bergamo. Intanto una battuta, mi permetta, è vero che Ribéry assomiglia come una goccia d'acqua alla russa, eh? Bah. E poi una considerazione, io credo di essere una persona assolutamente normale, non sono omofobo assolutamente, anzi non mi dà nessun fastidio, ho dei colleghi, degli amici che sono omosessuali, però il fatto di esprimere un'opinione, di dire che mi fa schifo vedere due uomini baciarsi... a volte sembra quasi che sia una frase omofoba. Io non credo che sia omofobia questa. No, non è omofobia. Come mangiare un cibo. Cos'è, scusi? Che cos'è? No, per me non è omofobia, ribadisco. Io, se lei mangia qualcosa, lei può andare ghiotto. Ma per io, una non, sto di, io cosa... non, sto di, non sto dicendo che lei è da impiccare. Sto dicendo che se le fa schifo vedere due uomini che si baciano, sì, beh, si aggiorni, io... si studi. Si informi meglio, guardi, affronti il mondo con più, come dire, con più tolleranza, con più libertà. Cioè, ma io sono tollerantissimo. Letto, però le fa schifo vedere due uomini che si baciano. Sì, mi dà fastidio. E invece un uomo e una donna che si baciano. Ma me lo tengo per me, non vado vabbè, certo no, veramente a fare... in questo caso non se lo tiene, non se lo tiene per sé, lo sta dicendo, è diverso. Ma certo, sto esprimendo una mia opinione, ribadisco. Dunque non se lo tiene per sé. Provo. Dunque non se lo tiene per sé, ma infatti non contesto le sensazioni, però è una sensazione su cui dovrebbe riflettere, secondo me. Ma io ci provo a riflettere, però è così comunque del resto. Le fa schifo. Cioè vedere due lingue di un uomo e di due uomini che si attorcigliano, le fa schifo. Vedere due lingue, un uomo e una donna che si baciano invece è una sensazione normale. Il punto è che lei non è abituata allo scandalo. A quello che una volta era lo scandalo, adesso non è abituato alla normalità. Non è abituato, è un limite, però lo riconosca, è un limite. Mi spiace, ma purtroppo è un limite che mi porta, cioè una sensazione che provo e non per carità, io non la contesto, però se lei riflette alla fine arriverà alla conclusione che è un limite. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Domani è previsto un interrogatorio di garanzia, in carcere per il senatore Lusi, che ancora non è stato arrestato, sta andando a Genzano, dove forse verrà arrestato lì. Beh, questi sono momenti terribili. Alfredo, provincia di Roma. Sì, pronto. Dica. Buonasera, Cruciani. Volevo dire, con il virgolettato, che palle, Cruciani, con questa storia del matrimonio di gay, mamma mia, non se ne può più, c'è anche una massa indifferente alla questione, eh? Sì, Alfredo, scusi, però non è che dipenda solo da noi, adesso però Cruciani, non facciamo che dipende dagli altri, insomma, il conduttore è lei insieme a Parenzo. Di che stiamo parlando? Però considerando con tutto il rispetto per Cassano, che peraltro parecchia simpatia, diciamo, non è che parliamo di una massima di Schopenhauer, ci fa piacere sapere quello che pensa Cassano, ma è un problema che non è un problema. Lei ha parlato del concetto di scandalo. Non so, oggi per esempio c'è un casino successo in Futura Libertà, il partito di Fini, dove Flavia Perina, che era il direttore del Secolo d'Italia, ha proposto di aderire al Gay Pride di Londra, di non so dove, insomma è favorevole alle unioni gay, e invece una parte del suo partito è contraria, dunque putiferio, sì, all'interno, ecco, di Futura Libertà. Sì, per carità, ma evidentemente veramente c'è, tante volte non c'è tema, non per fare i seriosi, perché non è proprio il caso, però io credo che sia una questione che attiene alle coscienze singole. Le dico solo un episodio. Sì, ma questa già si entra nel merito della discussione, scusi Alfredo. Sì, cioè, sì. Allora lei ne vuole parlare o non ne vuole parlare? Prima dice che palle, no, parlarne, non dopodiché devo, poi non entra non nel voglio merito. Parlare. Dico che ad esempio rispetto ad alcuni temi, che ne so, il professor Polillo, che fa parte del governo, ha detto, diceva, c'è il caso di ridurre di una settimana le ferie per aumentare il tasso di produttività e il tasso di assenza, sì, dei lavoratori. Guardi che ne abbiamo parlato anche ieri, eh? Sì, lo so, ne parlate tutte le sere, però insomma lasci fare a noi un po' anche, come dire, i cruciani della situazione. In fondo lei poi ha creato una moda, no? Questo fatto del dire ma chi se ne frega, qualche volta lo diciamo pure noi, ce lo permettano, altrimenti non ha un grande senso. Non contesto l'argomento in quanto tale, però credo che poi alla lunga diventi stucchevole, tutto qua. Va bene, grazie, grazie. Andiamo in provincia di Vicenza. Giuseppe, buonasera. Buonasera, buonasera. Ascolti, niente, anch'io come il dico che palle sta storia dei gay, poi io mi chiedo come fa lei a giudicare dall'alto dicendo che solo chi ha studiato, studi, legga, si informi, si modernizzi, eccetera. Poi come fa a dire che l'Africa, meno male siamo in Italia, non siamo in Africa. No, rispetto a quello che raccontava l'ascoltatore di prima. Ma lei si deve ascoltare ogni tanto. Rispetto a quello che diceva l'ascoltatore di prima, Giuseppe. Adesso guarda, se vuole può anche tagliarmi e mettermi. No, io non sto tagliando nulla, Giuseppe. Io l'ho detto quella cosa dell'Africa rispetto a quello che diceva l'ascoltatore di prima. Ma l'ascoltatore di prima diceva che in Africa non è normale che un uomo vada con un uomo. E allora? Allora, può darsi che ci siano valori che noi non conosciamo, abbiamo disconosciuto nel tempo, eccetera. Ma non è detto che perché siamo moderni siamo migliori degli africani, eh? Guarda, che si ascolti quello che ha detto prima. Sì, lo ascolto benissimo, so benissimo quello che ho detto prima. Allora qual è il problema? Ecco, scusi, rivendico quello che ho detto con grande forza. Va bene, allora lei va avanti nella sua campagna. Sì, la campagna. La campagna pro omosessuali. Sì, esatto. Si ritenga molto. Sono a favore dell'unione di fatto e dell'unione gay. Qual è il problema? Moderno, chic, perché ha studiato. No, moderno, che c'entra moderno, chic? Ma non c'entra niente. Lei come si fa a permettere da un ascoltatore di scusi, ma l'ha ascoltato quello che ha detto prima? Non mica tutto quello ha ascoltato quello che ha detto il signore prima, il signor Ugo, l'ha ascoltato o no quello che diceva? Le pare normale quello che ha detto? Le pare normale? Ha detto è questione di coscienza, è questione di gusto. Ha detto vedere due uomini. No, non si è limitato a dire questo. Non si è limitato a dire questo. Ha detto questo. Ma non Ugo, non quello di prima. È come mangiare qualcosa che fa schifo, è questione di gusto. Ha detto questo. Ma che gusto? Allora, se la libertà è libertà di incularsi, è anche libertà di dire che mi fa mamma schifo. Mia, mamma mia, mamma mia, quanta ignoranza! Va bene, allora io ma non va bene, non è che uno può dire studiare, andrò a leggere, ma non va bene, non capisce che non va bene, ci vuole la flebo, non va bene, non ma va per lei bene. Qual è il problema se due uomini hanno rapporti sessuali? Scusi, per lei qual è il problema? Ma nessun problema, non mi fa un problema, mi fa un problema sentire lei che continua a parlare di questo tre sere, ma parlate delle pensioni, delle baby pensioni, andrebbe fatta una campagna, mosse l'opinione pubblica. E invece noi facciamo la campagna sull'unione gay, qualcosa in contrario? Sì, fatto fare la campagna pro omosessuali. Qualcosa in contrario? Ma guardi, io ti dico, come ascoltatore dico preferisco non sentire parlare di questo, preferisco sentirla parlare lei di politica. E perché non sa, e perché non vuole sentire parlare di questo? Perché non vuole sentire parlare di questo? Mi spieghi? Ma perché dove vogliamo portare vogliamo che vengano che ci possano sposare due uomini e sì, due donne. Allora non è il problema. Sì. Va bene, io non sono d'accordo. Perché il mondo come si trasformerebbe il mondo? Facciamo un referendum, vediamo come si trasformerebbe il mondo. Beh, si sente tra la minoranza, perché siete una minoranza. Siamo una minoranza. Siete una minoranza moderna che legge, che studia, non so che testi leggete, cosa studiate, fregnace, e che legge, che studia, si sente moderna perché due uomini si baciano e questo è considerato una cosa. Invece per lei quando vede due uomini che si baciano che effetto le fa? Ma io dico, guardi, a me no, io non condivido, però è una cosa di gusto personale. Che poi vuol dire condividere o no? È una questione di coscienza personale o no? Di coscienza personale. Sì, che significa che non condividere? Non capisco perché non condividere. Ma guardi, io non lo so, io mi ritengo. Ma lei può ammettere che esistano due uomini o due donne che si amano? Ma sì, può succedere. Può succedere. E allora perché non si possono baciare? Anche in pubblico come fa lei con sua moglie, con lei, la sua fidanzata? Ma lei sta portando avanti l'idea che poi si possono sposare, possono adottare dei figli. No, adottare dei figli è un altro discorso. Ma lei vorrebbe essere figlio di due che si presentano a scuola, due uomini si presentano a scuola e la compagna. Perché qual è il problema? Ma dai, ma non è il problema. Non è, no, guardi, sicuramente dalla sua intelligenza non è un problema. Dalla mia intelligenza, mi ritengo abbastanza intelligente, per me è un problema. Beh, voglio vedere che lei si mette insieme con Parenzo, si vada a baciare con Parenzo davanti a scuola portando il figlio a scuola e vediamo cosa succede. Ma perché lei, ma lei non ho capito, ma vive nella giungla, non ho capito, cioè lei no, ha ragione, come... io vivo in Africa, sono un africano, certe volte mi vergogno di essere italiano con questa politica, con voi mi vergogno certe volte di essere italiano. Ma lei lei connette il cervello quando parla? Sì, guarda, mi mandi l'ambulanza, mi tagli pure. Nessuno paga niente, ma... Parlate di cose serie, non ma l'unione di fatto. Difendete cioè, due, lei si rende che convivono, conto che... due che convivono e che eventualmente non hanno detrazioni IMU, non ma hanno due zie. Un bambino che cresce con due zie, ad esempio, è un problema, perché un bambino che cresce con due donne, due zie, lasci stare quello che fanno nel letto, con due zie. Un bambino che cresce con due zie e che lo accompagnano a scuola per mano. Ma va benissimo. E allora di che cosa la vuoi parlare? Ma Parenzo, mi paragona due zie a due che vanno a letto assieme, che si baciano a scuola. È importante l'affetto che si... Comunque io non sono a favore dell'adozione, ma siccome lei mi porta su questo terreno con paradossi idioti, dicendo che io e Cruciani andiamo per mano e ci baciamo davanti all'asilo, dicendo una idiozia dialettica, perché la sua è una idiozia dialettica delle 20:07. Sono felice delle mie idiozie, guardi, ma è evidente, almeno ammetta che è un'idiozia, dica ho detto un'idiozia alla Zazzara, non sarà la prima denuncia. Fate un referendum e vedremo se siamo più avanti dell'Africa. Beppe da Siena. Cruciani, complimenti per la sua trasmissione. La prima volta che intervengo a Radio 24 e ho sentito primo intervento di un ascoltatore che era avversato da lei, nel senso che l'impeachment per il capo dello Stato è grave. Sì, non è possibile. E io non è che non sono d'accordo con lei, però volevo ricordare agli ascoltatori, cosa che non è stata fatta, l'impeachment che ha subito il presidente Leone. Un attimo. Che poi si è rivelata una bufala. Un attimo solo. Beppe, dica. Da parte del Partito Comunista Italiano, se lo ricorda, sì. Fu chiesto l'impeachment. Sì, ma erano in ballo altre cose, non come altre cose? Non le cose che riguardano il presidente Napolitano. L'accordo fra Stato e Macro sull'articolo 41. C'è dei magistrati che hanno le carte in mano, che c'è una lettera pubblicata dal Fatto. Ora, cioè, il discorso a me che non mi sta bene, dottore, è il discorso a senso unico. Tutto quello che viene fatto verso la sinistra non è vero, assolutamente non è vero. In Toscana si dice così, né vero niente, dicono qui da noi in Valdichiana. Ma che c'entra la questione niente di destra e sinistra con Napolitano? Tutto quello che viene fatto a destra basta una virgola, invece no, dagli all'untore. Cioè, ma non c'entra niente, scusi, però Beppe, la destra e la sinistra con questa vicenda di Napolitano non c'entra assolutamente nulla, assolutamente niente. Non c'entrano nulla. Ma qui si tratta di collusione di pezzi dello Stato con la mafia. È stato processato Dell'Utri, è stato processato Berlusconi per questo. Veramente questi Berlusconi non si tocca, su questo assolutamente no. Sono processi diversi, non c'entra nulla Berlusconi, sono procedimenti giudiziari diversi. Non c'entra Berlusconi, ma non c'entra c'era la sinistra, la quando destra. Quando c'era Mancino non c'era Berlusconi. Mancino era visto gli interni, non c'entra niente. Lo so che non c'era Berlusconi, l'ho capito io. Io non capisco perché non si può perseguire questa strada e dire facciamo chiarezza, come Di Pietro, io Di Pietro posso dire come fuma l'olio, ma io non capisco perché non si può richiedere una commissione d'inchiesta su questo fatto. Guardi, perché le commissioni d'inchiesta non servono assolutamente a nulla. Moreno da Rimini. Dalla politica, buonasera, proprio per buonasera. Quello non servono a niente. Dica. Perché arrivano una verità politica. Niente, volevo riprendere il discorso sulle unioni gay e come è un pochettino maltrattato, diciamo, dall'alto di un certo fighettismo quel signore africano. E poi forse le è sfuggito, non voleva dirlo, ma lei dice, rispondendo a un altro ascoltatore che diceva la stessa cosa, dice, ma le sembra normale quello che ha detto quella persona? Bene, se ti si appella alla normalità potremmo scivolare 3.000 volte sulla storia, normale, non normale, gay, eterosessuale, eccetera. Intanto sappiamo che esiste una legge naturale e che si è procreato, quindi lei ed io e anche Parenzo, allora, siamo tutti figli di eterosessuali. E no? Questo mi sembra scontato, dunque. Non è così scontato. A parte che non perché è detto, perché le persone che sono state eterosessuali potrebbero essersi trasformate in omosessuali successivamente. Ma comunque, no, ma io non sto dicendo che allora un omosessuale ha diritto di esercitare la sua sessualità. E qui non ci piove. Se io darei la mia pelle, poi... ma che questo significa anche un diritto civile che si possa estendere a non diversificare la coppia con una coppia eterosessuale che dà la vita ed è procreante, questo è assolutamente uno stato, è un modo per fare confusione che rispetto a dei giovani, no? Non so, allora, che non si voglia cautela rispetto i paesi in cui è stato introdotto il matrimonio, l'unione tra omosessuali, sono tutti dei pazzi che hanno visto stravolti i loro principi e sono in preda all'anarchia e alla comune. Da lei mi aspetto il buon senso. Il buon senso, che vuol dire buon senso? Io non sono una persona di buon senso. Buon senso significa questo. Che cos'è? Significa che uno adesso hanno pubblicato qualche giorno fa, se lei ha la pazienza di leggerlo, se vuole glielo mando, uno psichiatra che parlava proprio di questo, diceva che nel momento in cui uno sta per acquisire un'identità sessuale, un momento delicatissimo, se trova questo assolutamente indifferenziato, essere gay o non essere gay, questa indifferenziazione lo porterà a uno stato di depressione, cioè non è più in grado di capire esattamente cosa gli può dare sicurezza. E questo chi era? Scusi, questo genio? Chi era questo genio? Allora, questo genio è uno psichiatra, sì. Se vuole, adesso purtroppo non ho più il testo, ma sarà sicuramente un cretino. Però lei, come dire, non può avere un rapporto fideistico se fa lo scienziato liberal, no? Se lei è certamente un pensatore che io stimo tantissimo, no? Però non può fare il liberal e poi avere degli atteggiamenti dogmatici, perché ma io non ho atteggiamenti dogmatici, testimoni di zero rispetto a questo, sia cauto, ma dipende, cauto, ma dipende dagli argomenti che vengono utilizzati, ma dipende dagli argomenti che vengono utilizzati. Allora, caro Moreno, se uno deve pensare non mi pare, a me Moreno, a me non pare che i paesi, ripeto, siccome ci sono poi le esperienze, i dati concreti, allora non mi pare che i paesi in cui questi istituti sono stati introdotti, ripeto, sono in preda ad una mancanza, ad uno spaesamento, ad una assenza di valori, o non sono paesi in preda alla distruzione o all'autodistruzione. Questo perché fa parte del senso comune. Sì. Ah, è così. Allora, la Germania è un paese in preda alla sesto mese, e portare un bambino o alla neonatalità e salvarlo, oppure chiedersi come metterlo, ucciderlo, metterlo fuori dalla finestra. Ma che non è, oppure fare l'aborto post nascita, che stanno credibilmente. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Ma voglio dire, vengono queste proposte dai paesi non africani, dal nord Europa. Ma mio Dio, cioè, questa santità nord europea sembra il dogma dell'antica chiesa, ma sia cauto, mio Dio, lei è intelligente, ha degli strumenti, le hanno dati i talenti. Io sono molto cauto. Dogmatico, ma quale dogmatico? Uno essere, guardi, i testimoni di Giovanni sono qualcosa di lontanissimo da me. Vittorio, provincia di Monza. Sì, buonasera, Cruciani. Eccoci. Allora, rapidissimamente, sono d'accordo con lei e condivido la laicità con cui tratta l'argomento delle unioni omosessuali. Sono spaventato dal bigottismo di certe altre persone che sono appena intervenute, però in realtà io non chiamavo per questo, chiamavo solo per esprimere un minimo di indignazione per come tutta la nazione si sta prostrando in questo momento ai piedi di un paio di personaggi quali i signori Cassano e Balotelli, che vengono ogni giorno trattati con una condiscendenza e con un appiattimento che mi spaventa. Ma non mi pare che c'è questo appiattimento. Beh, io ho sentito l'intervista che hanno fatto a Prandelli l'altro giorno. Non mi pare proprio che ci sia appiattimento, ci sono critiche da tutte le parti. Scusi, di che parla, Vittorio? Ma allora, insomma, o legge o non legge, o ascolta o non ascolta. Volevo ma dire, quale appiattimento di cosa? No, che vengono criticati per qualsiasi cosa facciano? Non intendevo dire questo. Intendevo dire che sono spaventato da come vengano perdonati per tutto quello che fanno. Ma chi? Da chi vengono perdonati? Da chi? Chi è che li dovrebbe punire? Scusi. Un ragazzo di 20 anni, baciato dalla fortuna e dal destino. E allora che cosa ha compiuto? Che cosa ha fatto di così drammatico? No, di così drammatico nulla, però gli atteggiamenti che ha gli vengono. Non è lui che sto criticando, lui fa bene a fare quello che fa. Mi dà fastidio il fatto che l'opinione pubblica la gran parte dell'opinione pubblica si sia appiattita. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Non è vero, viene criticato o viene elogiato a seconda di quello che ognuno pensa, a seconda del tifo, eccetera. Non mi pare che ci sia questo appiattimento. Lei che cosa vorrebbe? Non ho capito, una punizione esemplare, ma per cosa? Avrei solamente un atteggiamento un po' più critico quando si parla di certi personaggi, cioè che i ragazzi fortunati, i ragazzi esemplari non sono loro, ma sono i ragazzi di 20 anni che si alzano la mattina e o vanno in un call center o vanno a studiare. Ma chi c'entra? Ma come che c'entra? Ma come si fa? Voglio dire, se c'è una cosa bella nel calcio, io l'ho detto poi Cruciani si annoia, è che almeno lì una volta c'era una possibilità di far valere il talento nello sport, almeno chiunque. può far valere il proprio talento e guadagnare tantissimi soldi, che è una cosa molto bella invece, è l'unico luogo in cui funziona l'ascensore sociale. Cosa c'entra il call center? Come si fa a non è un ascensore sociale essere un ragazzetto viziato? Ma che viziato? È un talento, ma, poi come si rispende? Ma che è un talento? Ma è un talento che usa malissimo il suo talento, non è assolutamente un esempio. Ma questo non sta a giudicare noi come si spende uno i soldi. Uno può comprarsi 50 case o andare con 50 donne tutte le sere, saranno fattacci suoi se si riguadagna onestamente i soldi. Non facciamo del moralismo da catto. No, li spenda come vuole i soldi, li spenda come vuole, ma che non ci venga spacciato come un esempio. Ma chi dice che è un esempio? Ma chi dice che è un esempio? Va bene, sì, Tommaso, ma... provincia di Torino, allora. Esempio, Balotelli. Tommaso, ma lei era già in linea prima, non ho capito. In linea prima mi avete richiamato, probabilmente interessava la questione della Fornero, ma io non lo so. Ma lei aveva già parlato prima, che cosa doveva aggiungere? Mi ha richiamato, volevo aggiungere solo questo, che oggi ho letto una lettera del ministro Sacconi, dell'ex ministro Sacconi, che io tra l'altro stimo, che ho sempre stimato, dove diceva quello che lui avrebbe fatto al posto della Fornero. Ma porca miseria, abbiamo governato fino a ieri, eri tu il ministro, e adesso sì. Quando arriva una che è l'unica di questo governo, io sono avevo tante aspettative nel governo Monti, perché è stato per anni, anzi fino a pochi mesi fa, il presidente della mia università dove ho studiato, lo stimavo ancora, ma sono profondamente deluso da lui, da Passera e da tanti altri ministri che non hanno fatto nulla delle aspettative che c'erano. L'unica che ha fatto in un paese dove sappiamo che certe tematiche sono veramente difficili, anche visto che alcuni cadaveri ci hanno lasciato. Ho capito, ma Tommaso, non si può criticare un ministro se ha commesso un errore, se ha dato delle cifre sbagliate, eccetera. Non si può criticare. Innanzitutto bisogna vedere se ha commesso un errore. Sì, va bene, infatti su questo si può discutere. Ha degli esodati, una valutazione un po' estensiva del termine esodato. Uno, non ci sono questa chiarezza di risultati. Due, anche se avesse sbagliato, questa caccia alla Fornero è vergognosa. Bisognerebbe avere un po' di gratitudine per questa donna forte e coraggiosa che sta facendo delle riforme per il bene del paese, soprattutto di noi giovani. Questo va detto, perché io lavoro da un anno e non andrò mai in pensione. Il fatto che ci sia qualcuno che pretende, in sfregio all'etica della responsabilità, di non allungarsi l'età pensionabile, perché quelli che cinque anni fa facevano così, 10 anni fa facevano così, e attacca questa signora come il nemico numero uno, e lo fa qualcuno del mio partito, del partito al quale sono iscritto e nel quale milito, che dovrebbe avere un minimo di idee liberali e che guardano al futuro, la cosa mi fa francamente arrabbiare. Lasciamoglielo fare a Liberto le critiche alla Fornero. Guardi, Tommaso, io ho a lungo appoggiato sulla riforma delle pensioni la Fornero, dopodiché poi non si può, cioè non è che va salvata comunque e sempre dalle critiche. Quando si dice che effettivamente sulla questione degli esodati ha commesso degli errori di comunicazione, ha commesso degli errori insomma di cifre che siano state date dall'INPS o in maniera sbagliata o no, lei comunque è responsabile di questa vicenda, che su questa vicenda siano rimaste per strada diverse persone, è vero che molti ci marciano sopra, insomma uno le cose poi vanno dette, la riforma è sacrosanta e secondo me in una riforma esistono anche dei costi sociali, non c'è nessuna riforma a costo zero. Che nessuno ha avuto il coraggio di prendersi. Questa è la verità. No, ma io sono d'accordo con lei, dopodiché poi sulle singole cose una persona può essere anche... Però bisogna stare attenti nelle critiche, sì. Perché è una tematica difficile. Io inizio a vedere un clima d'odio nei confronti di questi... Ma sì, ma l'abbiamo detto ieri, l'abbiamo già detto più volte, questo è vero. Sigla di Giannino, che devo dare qualcosa su Giannino, sigla di Giannino. Contro Ferrara e il suo editoriale... di oggi. Beh, è difficile che questo porterà più domanda di lavoro, e su questo non c'è variopinta prosa, non c'è immaginifica dichiarazione d'amore come quella di Giuliano Ferrara, il volubile commentatore del centrodestra che definì il governo Monti e quindi la Fornero un golpe. E invece, nella volubile prosa dell'immaginifico direttore del Foglio, adesso questo è diventato il governo non solo che incarna Berlusconi, non so quanto Monti e la Fornero siano d'accordo, ma in cui stamattina addirittura la divina Elsa, titolo del Foglio di oggi, diventa la mia morosa ideale. E come la volubilità possa seguire in un percorso estetico il relativismo dei valori, questo diventa il giornalismo italiano. E poi ancora lo Stato ubriaco tossicodipendente. Solito Stato che prende per sé come se non prendesse abbastanza questo ubriaco tossicodipendente. Antonio da Massa Carrara. Buonasera, innanzitutto voglio sostenerla su questa battaglia dei diritti civili dei gay, perché sono rimasto veramente basito dalle parole che ho sentito questa sera, quindi veramente resto convinto che ognuno nella sua camera da letto debba fare quello che vuole, senza che nessuno, chiesa, partito, comunque possa entrare a dirgli che cosa deve fare, poi se vuole limonare fa quello che gli pare. Bravo. Invece volevo fare una considerazione di un altro tipo. Mi piacerebbe, io vi seguo veramente da tanti anni, mi piacerebbe che tutta questa voglia di portare avanti delle idee, anche civili, venisse seguita, venisse fatto anche su battaglie che secondo me in generale la classe dirigente italiana lascia in retroguardia. Perché avete appena parlato della Fornero. Vabbè, io posso anche essere d'accordo su qualcosa. In questo momento Lusi è entrato in carcere a Rebibbia. Allora stava dicendo? Ecco, però io mi domando appunto sulla giustizia, sulla corruzione, questo problema di una classe dirigente che abbiamo inetta, perché ognuno di noi che lavora, molti di noi che lavorano anche nel pubblico impiego si accorgono da chi siamo amministrati, allora, la politica. Ecco, mi piacerebbe che anche su questo foste così forti. Mamma mia, ragazzi, ma questa qua non è. Cioè, lei non ha capito che cos'è questa trasmissione. Mi dispiace, ma non è che noi. Cioè, una trasmissione radiofonica non è la somma di tutti i problemi che ci sono in Italia, la discussione di tutti i problemi che ci sono in Italia. È una trasmissione radiofonica. Però, guardi, è una trasmissione radiofonica, non è una somma, non è un riassunto. Non è che dobbiamo occuparci di una cosa o dell'altra. La classe dirigente italiana è tipicamente molto timida nei confronti di questi problemi. Va bene. Si può colpire il lavoratore dipendente, ma chi prende oltre i 150.000 euro è intoccabile. Ma possiamo essere d'accordo su questo? Feltri sprona il PDL. Vittorio Feltri sprona il PDL, che anche oggi ha dimostrato una vicenda Lusi, al di là dei tatticismi, eccetera, no, la mancanza di sostanza politica. Ma di spina dorsale, di strategia. Se è una boiata non ci facciamo una bella figura, questa sul disegno di legge, sul lavoro. Sentiamo Feltri. Approvare una boiata pazzesca, ammesso che sia tale, e portarla in Europa significa portare in Europa una boiata, quindi non faremmo una bellissima figura. Ancora non capisco le liste civiche, mi manca lo iodio. Si parla addirittura di 8 liste civiche, ma e poi alla fine chi prende i voti? Spezzettati in quel modo, poi come ci si allea? Non ho capito niente, io naturalmente sono in difetto io, sono io che non capisco probabilmente, perché sono tardo, sono anche di Bergamo, quindi mi manca lo iodio. Però se qualcuno ce lo spiegasse sarebbe meglio. Fuori dall'euro. Sono convinto che impostando una campagna elettorale sulla uscita dall'euro e magari tornare al mercato, al vecchio mercato comune europeo, sarebbe forse un vantaggio. Allora, smettiamola con questa finzione, o ce la facciamo a costruire un'Europa vera, ma visto che non ce la facciamo, rinunciamo. Voglio risentire Ferrara con le associazioni, divento pazzo. Fatemi risentire Ferrara, divento pazzo. Tutte queste associazioni, associazionucole. Poi gliene faccio vedere una, va, di possibile. No, per carità, non mi fate vedere le associazioni che divento pazzo. Aspetta, no, ti divento pazzo. Marco da Como, buonasera. Buonasera. Io credo, allora, centimetri frati che arrivano. No, guardi, sento malissimo, ma. Marco, sento malissimo, lo dobbiamo richiamare. Sento malissimo. Claudio da Padova. Tu ti rendi conto che domani Berlusconi tornerà indietro rispetto a quello che ha detto oggi sull'euro? Vedrai. Sì, ma è un discorso più articolato quello di Berlusconi sull'euro. Comunque, è evidente che c'è una parte del PDL che vuole fare una campagna elettorale basata soprattutto su anatemi contro l'euro. Su questo non c'è il minimo dubbio. Contro l'euro, Berlusconi contro l'euro. Dice, non è bestemmia pensare che l'Italia esca dall'euro. Sì. Domani vedrai che dirà no, i soliti giornalisti che hanno capito male, come disse l'altra volta. C'era una battuta, bisognerebbe cominciare a batter moneta. No, ma era solo una battuta. E poi dice che sono allo sbando. Ma com'era solo una battuta? Claudio da Padova. No, era solo Pronto, una battuta. Buonasera a voi. Dica. Pronto? Eccomi qua. No, volevo riportare l'attenzione sul fatto che hanno deciso di non diminuire il numero dei deputati, giusto? lo mandano chissà quando, dopo le ferie, prima del Senato federale, per cui non se ne farà niente, perché tanto il PD voterà contro, per cui alla fine non si andranno ovviamente a diminuire i deputati nemmeno nella prossima legislatura. Ma quello che mi fa una non è detto, non è detto, cioè, vediamo che cosa succede nelle prossime ore, non è detto. Sì, vabbè, ma come dire al Capone che voti a favore del Natale, cioè quando mai succederà una cosa del genere? Scusi, non ho capito il paragone, come dire dal Capone che voti? No, come dire al Capone. Ah sì, la solita cosa del Capone. Ma non è detto, si era arrivati a una mini riduzione, adesso pare che sia complicato fare anche quella, insomma. No, quello che mi lasciava un attimino stupito è che il nostro Giorgio, quello che sta sul Colle, no? Che ogni tanto viene e pontifica sul discorso del terremoto, del noi che dobbiamo fare i sacrifici perché siamo arrivati in un momento difficile e così, quando invece c'è da intervenire su queste cose qua, Giorgio è assente, va a baciare Buffon. Ma che deve fare, scusi, ma che deve fare? Ma quelle sono dinamiche parlamentari, non è che si può intromettere nelle dinamiche parlamentari, su, siamo seri. Sì, ma si intromette sempre quando le cose... Vabbè, ma lei che ne sa poi di cose, su cosa si intromette, su cosa non si intromette, non lo sappiamo nemmeno noi, lo sanno i quirinalisti, quelli che si occupano di Quirinale, le pressioni che fa, le telefonate, le cose, spinge su un argomento piuttosto che su un altro, certamente c'è un feeling molto forte con Monti, ma qual è, non ho capito, qual è il rimprovero? No, non è un rimprovero, è un'assenza nel momento in cui le cose sono sempre contro chi è governato, mai contro chi governa. Non ho capito questa cosa qua. Nel senso che Napolitano interviene sempre e comunque quando la ramanzina la deve fare ai policristi come noi. Ma chi l'ha detto? Quando quando mai? Ma quando fa la ramanzina contro i poveri cristi? Ma di che sta parlando? Ma come no? Ma di cosa parla? Di cosa parla? Ma non più di 15 giorni fa è uscito dicendo che dobbiamo veramente stare molto attenti perché siamo in crisi. Vabbè, che era una ramanzina contro. È che era una ramanzina contro di lei. No, contro, non dico contro di me, ma sicuramente mette in attenzione il nostro popolo italiano perché in questo momento di difficoltà le cose devono andare in un certo modo anziché in un altro. Però queste cose qua vengono sempre fatte a livello televisivo, eccetera. Ma di che parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? Perché no? Ma di che parliamo? Di che sta parlando? Di cosa parla? Non sta vaneggiando Napolitano contro il popolo, invece mai contro i politici? Ma di che parla? Ma no, mai contro il popolo, ma dice al popolo, attenzione, dobbiamo fare determinate cose. Vabbè, allora? Ma queste cose qua le dice sempre al popolo, non dice mai a chi governa il popolo, Mamma mia. Marco da Como, allora Marco, vediamo se lo sentiamo bene. Buonasera, adesso mi sentite meglio? Sì, sì, dica. Innanzitutto volevo dire che sentendo le telefonate che arrivano, secondo me la zanzara è come la tossicodipendenza. Sì. A momenti è bella, a momenti è brutta, ma la gente non può farne a meno. E credo anche che l'80% delle persone che chiamano per insultarvi sull'omosessualità, se vedessero una coppia di belle gnocche che si bacia per strada davanti a loro, avrebbe tutti altri pensieri rispetto a quelli probabile questo, bravo. Che esprimono. Bravo, probabile, molto. Credo che penserebbero soprattutto mi ci butto in mezzo. Molto verosimile, molto maschile, bravo, probabile. Sì. Io poi una dozzina d'anni fa ho avuto una relazione con una ragazza che viveva con una coppia gay e l'unica cosa che mi dava fastidio erano i litigi isterici, per il resto non me ne fregava assolutamente niente. Beh, ci mancherebbe altro. Quando litigavano. Vabbè, quello sono i litigi isterici, quello non è solo una prerogativa delle coppie omosessuali, Marco. No, era particolare questa cosa, nel senso che erano molto, molto isterici. Beh, ho capito, anche qui di litigi molto isterici, ripeto, ce ne sono soprattutto e anche tra coppie eterosessuali. Cioè... Sì, vabbè, forse perché io vivevo questa relazione molto tranquillamente, ecco, appunto. E mi risultava questa cosa. Va bene, grazie Marco, grazie. Fabrizio da Novara, buonasera. Buonasera, senta un attimo, volevo chiedere una cosa. Finita la trasmissione, lei cos'è che fa? Ma che questo è... Cosa vuole che faccia? Ma che dice, Fabrizio, chiede, dipende dalle giornate, dipende dalle serate. Ma perché? Lei che gliene frega? Che gliene importa a lei? Ma chi è pubblica il parla, ma di che spiacito sta buona. Allora, perché non va a recuperare il suo cervello all'aeroporto? Perché sta partendo, perché si rifiuta di stare nel suo cranio. Perché guardi che hanno chiuso gli zoo a Roma, lo zoo di Roma, chiude alle 6:30, Ma questo qui chi è? Fa parte del club del Verdicchio, il Pierdenzo lì, come sì, guardi che lo zoo è chiuso, quindi se lei è scappato, adesso lo facciamo recuperare dagli amici del zoo. Perché non chiude quella fogna che ha dalla zona di Villa Borghese? Fabrizio, stia calmo, guardi che, guardi che passa la Calappia Cani adesso, quella, una roba con retino, la prendono, la portano dentro e la riportano. Sì. Più. Io sono anche capace di venirti via a beccare dove cazzo sei. Vuoi vedere? Stai calmo, Fabrizio. Stai calmo, stia calmo, stia calmo, stia calmo. Ma chi è? Ma non lo so, tanto abbiamo tutto sotto controllo qui. Sono uno che mi faccio prendere per il culo da te. Ma è lei che ha chiamato, ci dica qualcosa. È lei che ha chiamato, Riccardo dalla provincia di Cremona. Io sì, buonasera. Volevo soltanto dire che sono scandalizzato. Complimenti per la trasmissione. Richiamalo Cucciani prima, richiamalo, può mica finire così, Riccardo, dica. Sì, buonasera. Niente, volevo dire la mia sul caso Lusi. Niente, io sono d'accordo affinché lo processino subito. Poi se il Lusi faccia la fine del capro espiatorio è solo un aggravante nei confronti, diciamo, scusi, però io questa cosa del capro espiatorio, al di là della questione del carcere, no, non la capisco. Cioè, no. È uno che sembra, da quello che aveva confessato anche all'inizio, sembra che abbia sottratto qualche decina di milioni di euro dalle casse della Margherita, certo, per comprarsi appartamenti, pagare tasse, eccetera. Attenzione, ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Al di là del carcere, non mi sembra che sia poi che i soldi della Margherita siano stati gestiti in maniera irregolare, che molti leader della Margherita non abbiano detto tutto su come sono stati gestiti questi soldi, su quante persone abbiano beneficiato di quei soldi per attività magari non propriamente politica. Questo non lo sappiamo, dice Lusi che ci sono altre cose da rivelare. Quindi vedremo. Concordi anche tu col carcere? No, io non concordo, ho detto al netto del carcere, che è un'altra questione. Ma che vuol dire? Ma che significa? Ma cosa? Per te qualsiasi provvedimento del magistrato va comunque bene, qualsiasi sia. Ma non qualsiasi, ma il signor Tanzi prima della sentenza. Ma cosa c'entra il signor Tanzi? Ma questo non è manco al primo grado, ma che dici? Ma cosa dici? Per tutti, allora si ponga il problema per tutti. Vabbè. Non si va in galera tanto fino alla sentenza di primo grado. Tanto, per tutti. Tanto è inutile. È inutile. Ma io dico valga per tutti, in particolare in un momento come questo. Ma che c'entra il momento? Il momento è proprio la boiata più pazzesca. No, il momento è proprio la boiata più incredibile. La politica dovrebbe riacquistare. Ma non c'entra niente il momento. Il momento non c'entra nulla. Dovrebbe essere lui il primo a dire sì, ci vado perché dimostrerò la mia innocenza. Ma perché io non capisco perché bisogna per forza in un processo prima passare dalla galera. I giudici hanno deciso questo. Si può anche giudicare. Si può anche giudicare il fatto che la richiesta di arresto sia come dire ormai. Ma la si giudica per un cittadino qualunque, no? Anche. Va bene. Per un cittadino qualunque si giudica. Ma tu stai negando la realtà, che non è un cittadino qualunque. Allora, se tu dici che deve essere eliminato questo passo. Va bene, per te prevede il fumus persecutionis, se c'è o non c'è, quindi quello devono valutare i parlamentari. I parlamentari che hanno votato sì all'arresto non l'hanno fatto con il livore, perché dicono deve andare dentro la galera. No, hanno visto le carte, secondo te? Hanno visto le carte. Avranno, ma io come ho la buona fede di quelli che hanno quelli del PDL sono usciti. Va bene. Antonio da Milano, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, buonasera. Vada. Un piccolo particolare riguardo alle unioni omosessuali che mi sembra lasciato un po' in disparte, tralasciando il discorso eventuale dispendio per il contribuente che è già stato trattato, ma c'è una cosa che veramente non viene trattata per nulla, cioè sembra che le unioni omosessuali diano dei problemi quando sono tra due uomini, ma quando sono tra due donne, e mi sembra di capire che sia lei che Parenzo non eravate favorevoli alle adozioni. Ma le donne possono concepire un figlio, anche andando per esempio a una banca del seme. Sì, può succedere, per allora? Questa persona non ha una tutela, mentre l'adozione... Ma in può che essere... senso non ha una tutela? Adesso non andiamo a complicarci la vita, che significa non ha una tutela? Nel senso che mentre per legge potrebbe essere impedito di adottare, non si può impedire di concepire. Beh, allora... Certo. Allora vuol dire che ci sono delle discriminazioni. A parte che in Italia non si può fare, credo. All'estero? No, non è vero. si può fare benissimo, non è legale, ma si può fare. Sì, ho capito, appunto. E quindi? Quindi il figlio che nasce come viene tutelato? Vabbè, Antonio, dunque la conclusione del suo ragionamento qual è? Mi vada a fare un ragionamento, mi vada alla conclusione, qual è? La conclusione è semplicemente che questo è un argomento che non è stato trattato da nessuno. Va bene, benissimo, meno male. A Marco certamente non verrà trattato qua. Marco da Padova, buonasera. Buonasera. No, hanno sbagliato il NAF di Padova. Sono padovana come per dentro. Sì. Comunque, avevo voglia che suonasse una serina della Croce Verde prima che... Non si capisce nulla. Lucio da Milano, buonasera. Oh, buonasera Lucio, spero che non abbandoni la telefonata. Comunque, posso fare due quesiti? Sì, lei può dire quello che vuole, basta che si sbrighi e sia sintetico, sia veloce. Non mi mette urgenza perché altrimenti mi mette... No, non mette urgenza, però è lei che si complica la vita da solo, no, scusi, Lucio. Prego, mi dia spazio, per favore, perché sennò prevarica e poi non capiamo. Ma io prevarico, allora, non ho detto niente, ho detto si sbrighi. Va bene, d'accordo, siamo della Vergine tutte e due, lei è Vergine, io sono Vergine. Ma che c'entra, lei? Scusi, che c'entra, sono Vergine? Perché il signor Zaracale potrebbe avere un ascendente, comunque non è importante. Un ascendente, allora, ma di che stiamo parlando? No, se vuole ci incontriamo personalmente, le faccio ma no, ma perché io non ci penso per niente, ma non ci penso nemmeno lontanamente. Non ci pensa per niente, lei non può stare in pubblico, in diretta e continuare a snobbare, chiamare il 118 e il trattamento sanitario. Quando è il caso lo chiamerò, se è il caso lo chiamo anche per lei, lo chiamo anche per lei. Mi dia la facoltà di parlare. Allora, io sono un nonno di 61 anni, ho tre nipotini, uno di 6 anni, uno di 3 e uno di 3 mesi. Mio nipotino di 6 anni domani mattina incontra due uomini che si baciano per la strada, non so cosa rispondergli. Questo è uno. Per quanto riguarda il signor Lusi, deve andare in galera, ma non adesso, quando ha rubato i soldi. Punto e a capo. Vuole incontrare lei, il mio numero, io sono a sua disposizione. Ma perché la devo incontrare, scusi Lucio, per quale motivo? Perché lei la smette di continuare a fare il sovrano sulle persone che a un certo momento dicono un'opinione al contrario della sua e lei immediatamente li manda a quel paese. Lei deve stare calmo, schiacciarsi ed essere utile. Così la sua trasmissione... Lucio, innanzitutto la smetta di parlare col viva voce o con l'auricolare. No, io non parlo col telefono, il mio computer è bloccato, non si sente, non sono in viva voce. Non ho capito perché dovremmo incontrarci ancora. Ci incontriamo perché così ci parliamo in faccia e possiamo... Ma perché la devo incontrare? Scusi, per quale motivo? Mi devo incontrare perché lei interrompe il 50% delle sue telefonate. E allora lei non deve fare il sovrano. Ma capito? Io sono il sovrano. Perché sta parlando con delle persone. Io sono il sovrano. Il conduttore è unico delle coscienze. No, lei non è sovrano di resto di niente perché lei percepisce uno stipendio per la G24. E allora lei non deve fare il sovrano perché lei altrimenti... Ma sono pagato per fare il sovrano. Lei è un buffone. Scusi Lucio, ma non ho capito, al di là di buffone, no, perché ci dobbiamo incontrare, scusi? Ci dobbiamo incontrare così ci parliamo, vediamo... Ma io non voglio parlare con lei, lei parla... Lei non vuole parlare con me, no. Perché si caga addosso, ha capito? No, è un sovrano, lei manda a fanculo la gente perché... Lei deve parlare con me alla radio e basta, non deve parlare con me fuori dalla radio. Alla radio, gli ho fatto due domande, mi risponde a queste due domande. Mi dica. Allora, un bambino di 6 anni che vede due uomini baciarsi. Sì. Lei, se fosse il nonno, cosa gli risponde, visto che lei sa tutto? Nulla, sono due persone che si amano, che no, si vogliono bene. No, nulla è un bel cazzo, perché lei comunque in quel momento non sa cosa rispondere a un bambino di 6 anni. Sì, no, ma le ho detto cosa risponderei. E allora le dica lei al suo socio che è suo partita. Fidanzato, di vergognarsi, di nascondersi. È partita! Ha capito, il signor Parenzo che ci ha dato lo scemo, che si... non lo so, ma cos'è che è partito? Dove è si partita. Trova? Dove si trova? Io a Milano. Dove? In che zona? Piazzale Corvetto. Piazzale Corvetto. Benissimo. Si faccia trovare accanto all'ingresso della metropolitana, uno degli ingressi della metropolitana. Fra poco passa una cosa con una lampeggiante sopra. Escono bello, due. Bello. Escono fuori due signori in camice bianco. Lei mi sono del matto. Lei due si deve vergognare. Due lei signori in camice bianco. Escono fuori due signori in camice bianco. Sì. Non si preoccupi, dura poco. Una puntura si e si chiama sanit... trattamento sanitario obbligatorio. Esatto. Bravo. In Croce Rossa. Ma io signor una siringa, una siringa e poi lei non si preoccupa, lei non si preoccupi. Perfetto. Non poi si ritrova tranquillo, non si preoccupi, calmo, si sveglia ed è più rilassato. A domani 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.